che c'è l'amico Cagliari. Ci sei? Ascolti. Frida. Ti ho risposto anche prima, Antoni. No, sono Gianni, doppio io. Quello che stavo dicendo, se piacerebbe scavare un bello vento venturio, poi ti metterà all'angolo a prenderlo, lì c'è la sabbia e la roccia, e se pesca un bello di seppi anche grandi. Parecchie volte siamo andati anche 12, ne abbiamo preso 15. Positivo, positivo. L'ho visto che è pieno, ma oggi si sente sempre un po', dove tu hai sentito il distributore, però dalla parte degli scogli all'altro lato. Ma le scempie dalle scuole ti viene male, invece dall'altra parte dove c'è il distributore lanci verso gli scogli e recuperi piano piano, però non lanciare mai verso come si dice, verso sinistra, perché lanciando verso sinistra incagli ti rimani adulto, invece così è importante un completo ce l'hai, perché per le scempie necessita il copolis perché ti si stacca. Ci abbiamo tutto, corpo telescopico in cabina, due canne da pesca, anzi tre veramente, due valigette, una per bolognese e un'altra per profondità. Vaga, ma io ho sempre l'attrezzato, non c'è problema. E li ho sempre pescati io, li vivi lanciando dall'angolo verso dritto e poi recuperando piano piano. Devi stare attento perché c'è un po' di scogli. Adesso come hanno rimbosso tutto che hanno fatto il Mola Nuovo, ci sono un po' di scogli sott'acqua e è un po' un casino, però magari se riesce, io ne ho preso anche due una volta di scempi, tutti e due metti massicci, ne ho chiamato a uno per prendere il copo per mantenerlo sotto, quando sono andato a tirarlo su, una mi è scappata e l'altra l'ho presa. E gappa gappa, l'ho vista io, una signora che ne ha preso una bestiale. Ho visto, ce ne sono, lì sono pieno, pieno. Io l'ho sgamato quel posto perché una volta sono andato a pescare con le canne a fondo e c'era questo tipo, ne aveva 12 di secche. Non erano grandi, ma erano belline. E quando le ho viste, ho detto, caspita, il risotto gli già riesce, dice, sì, a me tutte le sere le prendo, me le metto in freezer, poi quando mi servono me le uso. E fatto sta che il giorno dopo l'ho fregato io, sono arrivato io prima di lui, quando lui è arrivato mi ha detto, sì, e l'avevo già abitato un bel poco. Ma eri già sempionato. E allora, lui si è trovato un po' così perché era convinto che non c'era nessuno, ha trovato a me, ha detto, comunque si mette a fianco, non c'è problema, ah, ti disturbo, no, gli ho detto, non c'è problema, il molo non è mio, anzi a me mi piace perché parlo con la gente, sono abbastanza soggevole, quindi parlo, discutiamo di pesca, un po' di tutto, ridiamo, facciamo, ho fatto molti amici così. Positivo, positivo, pure io sono un tipo soggevole, non vado... Già hai visto, se ci siamo conosciuti al porto, hai visto come sono, cioè non sono uno di quelli con la puntetta sotto il naso. Poi ce n'era uno una volta che stava pescando prima di me, no? Io sono arrivato alle 6 di mattina, lui era già lì, quello che non c'aveva manco un pesce. Sono arrivato io, ho messo le canne a terra con i segnalini io li faccio col cucchiaino del caffè, piegato il manico, la metto in tira e quando mangia si tira il cucchiaino, non fa rumore. Metto la prima canna, vado a mettere la seconda, impatto il cucchiaino, la prima orata, e questo primo secondo mi guardava con la faccia dritta e con la coda dell'occhio. Non ha nessuno, io ho detto buongiorno, quando sono arrivato mi ha nemmeno salutato. Poi mi guardava con la coda dell'occhio, un bel male, perché... Oh, era geloso, cosa ne so, e poi le ho prese tutte una dopo l'altra. Questo che alla fine ha preso, si è abbigliato tutto e se n'è andato. Oh, io è brutto così, a Cuneo diciamo magari. E ti guardava di traverso lì, con la testa dritta, però ti guardava con l'occhio furbo. Televisione, posso 100%. Ha detto ma se vediamo se i gruppi dalle tue corse. Cambio. Parlamelo, questi gruppi o cambio cambio. Io devo fare la mia, devo fare la mia. Molto bene, di antenna, mi spara veramente bene. da me, c'è tu. Fa più di 100%, la 1000 non l'hai provata. Ma io ce l'ho più di 5000 di una volta. Infatti, a me me l'ha dettata un amico che ce l'aveva in garage, e praticamente questa piccola di Cinuzza me l'hanno data a me, l'antenna, e ce l'ha da 30 anni fa, ma tu la devi vedere, è tenuta bene, lucida, non c'era un filo di ruggine, niente, proprio tenuta perfettamente. Era già la bobina in movimento, dava, a volte riceveva, a volte no. Vabbè, quando partono così, ci sono anche le mantova che stanno facendo così con questo cavo della carica che è staccata, tu la metti l'antenna e ti esce come se fosse una Grand Prix, ecco, non c'ha massa, non c'ha niente. Ma se ti metti la Turbo 2001, io ho la Station Wagon, l'ho messa al centro capotto la 2001, va benissimo, però sul cane è molto alto il cane. Se quando dove vai, che ti tocca tutte le parti, e l'unico, secondo me, l'unico modo di metterla è metterla dietro la cabina. Bianco Gianni per me. Bianco per me, Gianni doppio luce, scusi, cambio. K. Tanti, ma ci vediamo. Ehi, ma non ti ricordo come si chiama, Massimiliano. Non ricordo come si chiama quella che... Ha copiato Piso, Midland X48 Turbo, ma si mi deve riprenderti quella lì della Midland che va benissimo. Alghero. Aspetta, io ti ascolto ancora, ma si vedeva. Ti ascolto ancora, non so se arrivo io lì, ma io ti ascolto bene, cara. Capo, io ti ricordo che sono sotto casa, in macchina, sotto casa sono fermo. Quindi se arrivo così, la radio piuttosto lì mi è bella. Magari, sta con me, sta funzionando tutto bene. E Gianni con il suo altellone lì spara bene l'alghero, vai Gianni. Ma a me non mi sente Massimiliano, io sono piccolo e nero, che Riprendi, io vado a farmi il bagno, vai. se no, no, che non me ne viene più gana. Devo fare bagnetta, bagnetta. Gianni, hai dimenticato davvero, parlate con voi tutti. Perché se ti incazzi tu, ci possiamo incazzare anche noi, non è che io sono limitato, se voglio lineare me lo compro anch'io, problemi non ne ho. Adesso ho già sopra l'armadio, perciò so che un po' mi turba a fare un cosa. Allora. E come mai questa minaccia? Non ho capito questa minaccia qua che hai fatto, eh. No, così, era stato per dire, no, ma no. Luca. Ciao, ciao. Stavo sulla parte? No, sto scherzando, scherzando. Potete fare quello che volete, per me non c'è problema, capito mia idea. Sì, non penso che stia facendo chissà che cosa, sto solo parlando al baracchino tutto lì. Non penso di fare né prepotenza né coso, io esco come sono e basta, non è che non me ne affitti più da avere della prepotenza di coso, però se diciamo se mi mettono in condizione di farlo lo so farlo anche io, i lineari li ho avuto prima di voi e anche grossi, quindi li so usare. Ah, oh, ci mancherebbe. Stavo solo scherzando, capito mia, niente. Gappa, gappa, gappa, gappa. Luca, ti ha avuto già Giambaristo, cazzillo? Ti ha avuto? Il Giambo Aristocrat, dillo? Giambo Aristocrat. Giambo Aristocrat, no, Giambo Bu. Vabbè. Giambo Aristocrat, no, Giambo Aristocrat. Vedi come ci frega. Avanti, l'amico di Polontone, che non mi ricordo mai come si chiama. Pisolo, vaffanapo, non mi ricordavo, dimmi Pisolo, ti stai posizionando per la pesca. Non ci riesce Luca a dirlo, capito? Non riesce a dirlo, Giambo Aristocrat, non riesce a dirlo e mi diverto a farglielo dire. Giambo Aristocrat. Aristocrat. Aristocrat. Comunque quello era 690 lui. Aristocrate, 690 è l'acqua. Ho portato un programma, ma non la tocco, ma non lo so. Non lo so perché non riesco a trovare. Di acqua, iniziamo, LC2. C'è tutto, ma è un programma che ho fatto adesso. Programma è? È un programma che è tipo un gioco, un bot, che manda a indovinare, no? Deve indovinare quello che ma ti manda lui. E non manda, qua non c'è. C'è Skype, c'è il team VR, quello che si presenta in un PC all'altro. Quelle, vabbè, Messenger, c'è tutto tranne che quello, un po' è strano. Anche allucinante. Bravo, mi ha già ripreso, però cerco, vediamo un po' se lo trovo. Va bene, ciao, io sono Serena, ce la ascoltiamo dopo, ci sentiamo anche per telefono, vai, ciao, ciao. Ciao Luca, ciao a tutti, Marchetto, Pisa e tutti quanti, dai, ciao, ce la ascoltiamo dopo. Ciao, ciao, che fa? Buon corretti per il momento, dai, ci sentiamo dopo. Scappa, avanti, Pisolino. Ah, dai, saluto tutti anch'io che sto scendendo a bilanciare il rimorchietto e niente, dai, ci ascoltiamo se coincide più tardi. Papi, se lo va, qui ci fai sapere che cosa è pescato, poi più tardi penso che andremo a qualche localino, ma poi ci usciamo, accendiamo. Se ci sei, ci danno notte tarda, magari, chissà, ci andiamo anche a farti visita, che adesso... Avanti Lucrezia. Ciao Pisolo, ciao Pisolo, ciao Pisolo. Ciao Pisolo, ciao, ciao per Paolo, la prossima. Anche io vado a lavarmi, che ne so. E già presto ancora, vedi, avuto. C'è di te facendo la vasca. Sì, già lo prendo già, caspita, ti muovo dalla parte a parte, aspetta che te lo dico io che non sono, che è sempre che riesco a vedere un po'. Allora, vai, aspetta ancora, sono 18.01, vai. Ma poco fa che hai fatto, bianco o rosso? No, più che rosso che bianco, rosso, rosso, è spumanteros, con spumanteros. Rosso di sera, per tempo si spera. Allora, è spumanteros. Magari. Un po' di spumante, Va bene, già va bene, non c'è problema. Ma avevi sentito l'appisolo a Porto Torres? Ehi, penso di sì, penso che ti sentiva. Sentiva anche Antonio, non lo so a te, però non te lo so dire se ti sentiva o meno. Pisolo ancora ti sentiva. E non c'è, non c'è. Che schifo. Ma diciamo che negli anni, credo che fosse gli 80, 82, così. Avevo una bella stazioncina a casa di mamma, sacro un po'. Pagava, scappa, poi vogliono. Ha cominciato il 18, ha avuto un incidente, si guarda la televisione tutte le ore. Io purtroppo avevo messo una Grand Prix, allora si usavano quelle. E li facevamo vedere TV, e si è venuta la moglie a protestare, cose, mamma si è incazzata e ho dovuto togliere tutta l'antenna, modulavo solo dalla macchina. Avevamo da accompagnare la mia fidanzata, mi mettevo sotto casa di mamma, mi coricavo nei sedili e modulavo. L'altro giorno mi sento bussare il vetro, ma è stato lungo, ma con i carabinieri che mi trapuntato, pensavano che si rubano una radio. Allucinante. L'hanno chiamato quello del palazzo, dice, cosa ci fate qua? No, cosa ci fate voi? Io sono in macchina mia. Sono sotto casa mia perché è proibito restare, ma sto disturbando qualcuno. No, perché ci hanno chiamato al palazzo, dice, con il carro nella macchina, tu scusi, ma io non posso fare ciò che voglio in macchina mia. E mi faccio avere documenti, questo e quell'altro, lo so che lì qua può disturbare, vicinato, ho detto guarda che non sto disturbando nessuno, sto parlando al baracchino, con degli amici, tranquillamente, così la rivede pure i bei potenti, capito? Ci hanno fatto vedere, non si deve mettere così perché se no ci fanno fare gli interventi inutilmente. Ho detto scusi, ma se la gente è mancata a testa, che cosa ci posso fare io? C'è un grido già, capita, ognuno può fare, non che ne piace e non vuoi cavare la sua, non ho capito io. E siccome mia mamma me l'aveva fatto cavare, allora mi avevo veduto l'antenna, avevo la quinta in macchina, il microfono attorno ai più due da palmo, lineare da 50 watt mi pare, ma era una coppiata allucinante, andava benissimo. Vabbè, ci posso credere già, a voglia. Però come state non ho mai avuto problemi. Ma diciamo che l'ho dovuta togliere, l'avevo venuta l'antenna, Angelo Asso di Porto Torres, se mi ricordo ancora. L'aveva data la ragazza che era a San Giovanni e si sentivano tramite baracchino. Lui era di Porto Torres, lui di San Giovanni. L'avevo acquistato la ragazza e l'ho avuta 40.000 lire l'antenna. Allora, però quella lì non era la LEM di Avanno, era una LEM che ci aveva, prima di tutto lo stile era bello massiccio, quello centrale, e poi radiali ce li aveva quelli, però ce li aveva 2,75 in uno, a carica in punta, era ben bella. Sì, già lo prendo già, a lui già che arrivava. E arrivi alla lira, 10, 9, 5, 9, 10, ok? Aspetta, lo cura è la buona terra. Avevo messo la manto, va lì. E allora abbiamo praticamente riconvinto mia madre, ho tolto più di pezzi e avevo messo la manto. Ma tanto quello se n'era andato, intanto aveva cambiato casa, non c'era più. E me la sono ripiazzata. Da lì ci avevo sempre da quinto a casa, già un Aristocrat, che era un lineare da 600 volte che quando lo usavo ti spegneva le lampadine di casa. Aveva un assorbimento, ma ti rimaneva la luce a tutta andare, ti arrivava la bolletta, no, ma le peccate da fare bollette, ma tutta questa luce non la consumiamo, sai tu con quell'apparecchio? No, io. Via, Luca! E quindi vediamo un po' chi è rimasto, quanto è qualcuno sul canale 5, c'è qualcuno che vuole entrare? La, c'è qualcuno che vuole entrare in capo? C'è tablet che sì, ciao Cona! Campana. Non c'è problema, ci fa sempre piacere anche chi ci sta a ascoltare, vuol dire che qualche cosa valiamo ancora. E beh, Cona, cosa stai combinando di bello? Cosa stai combinando in questo momento? Stai modificando qualcosa? Manca. Quindi hai riformattato tutto questo computer. Allora, che pazienza che ci vuole. Ci siamo io, Luca, che sta facendo un programmino, non so, sta installando.